の愛子はチャイへ、ショージへ、パイアラが、ハッハッ。 Bentornati a Verba Volant, contenitore sonoro di controinformazione, controculture e inchieste. Sabato in onda dalle 14 alle 15 dalle frequenze di MEP Radio Organizzazione. Anche quest'oggi vi terremo compagnia per questa oretta, appunto, qui insieme a noi. Iniziamo da subito con i nostri contatti. Innanzitutto l'indirizzo email verbavolant@mepradio.it al quale potete scriverci e contattarci. Verba Volant presso MEP Radio Organizzazione via Angelo Maria Ricci 91 02100 Rieti, l'indirizzo al quale potete inviarci qualsiasi tipo di materiale in un modo un po' più tradizionale, e www.noblogs.org è il blog dal quale abbiamo inserito diversi appuntamenti, diverse informazioni, nonché tutte le vecchie puntate, le vecchie edizioni, le scorse edizioni di Verba Volant che potete scaricare e ascoltare. E torniamo qui per passare appunto questa ora ormai scarsa in compagnia appunto con Verba Volant. Quest'oggi parleremo di un discorso che parte un po' da lontano, in particolare dagli Stati Uniti d'America, un discorso che, anche se nell'ultimo periodo è arrivato un po', diciamo così, alla cronaca quotidiana dei giornali, è in particolare dallo scorso anno, quasi un anno fa, nel periodo estivo, in particolare ad agosto, quando si ebbe una crescita repentina appunto del, diciamo così, delle negatività delle banche appunto americane, che portarono un po' a quello scoppio di crisi economica che ancora oggi sembra gettare un velo scuro su quello che potrebbe essere un po' il futuro per tutta l'economia mondiale, e soprattutto ha portato appunto molti svantaggi ai singoli cittadini che un po', diciamo così, avevano comprato un'abitazione senza sapere bene la tipologia di mutuo che erano andati a contrattare, e appunto proprio questo meccanismo ha portato a perdere l'abitazione nel quale appunto le persone potevano vivere. E si perde di questa cosa. Piace ballare in un posto lontano dove mettono roba pesa come i corna, e non è sempre allegra, super chiome, ma è sempre attenta a tutto, piena com'è di pensieri affollatissimi e di riflessi conseguenti al trattamento della sua parrucchiera di paese. Ma ovviamente il problema dell'abitazione, il problema della casa, non è una prerogativa esclusivamente degli Stati Uniti. Effettivamente c'è un po' in tutto l'Occidente un problema per quanto riguarda l'abitare, e per parlare proprio dell'Italia, proprio negli ultimi giorni, forse anche diciamo così, per il clamore che potevano portare azioni del genere riguardo alle elezioni, ci sono state appunto diverse occasioni nel quale si è potuto riparlare, si è potuto ripensare di quello che è il problema casa un po' qui nel nostro paese. E proprio di questo, diciamo, andremo a parlare tra pochi minuti, successivamente a spendere due parole su quello che è stato il problema negli Stati Uniti d'America, proprio per tornare a diciamo così, discutere su quelle che potrebbero essere le possibilità per il futuro per le persone che purtroppo non hanno le capacità economiche per diciamo, acquistare una casa nel mercato, e dall'altra parte invece quello che è un po' il diktat che si sente in tutte diciamo così, le varie fazioni politiche, cioè il fatto di lasciare sempre più al mercato appunto il problema abitativo, non in, diciamo, interessandosi più di quelle politiche di abitazione sociale come appunto le case popolari, che sembrano sempre più difficili da fare, e non si capisce bene se sia un, diciamo così, una decisione voluta a livello economico, o se invece ci siano altri interessi sotto che rimangono sempre, diciamo, velati tra piani regolatori sempre più a cementificare le città, e appunto diciamo, interessi di singole persone che però vanno a ledere quelli invece della comunità. Appunto, tutta diciamo, questa crisi economica che sembrerebbe interessare anche un po' la nostra cara vecchia Europa, anche se in, maniera minore l'Italia, è partita tutto da questi subprime, una tipologia di diciamo così, di mutui, ma una vera e propria, possiamo definirla, tipologia di economia che si è sviluppata proprio negli Stati Uniti d'America, e il suo largo utilizzo sia da parte diciamo, dei contraenti, quindi dalle delle persone per diciamo, accedere a credito quando in realtà magari non potevano accedervi, ma soprattutto per le forti spinte da parte appunto delle agenzie di credito nei confronti di questa tipologia di prestito, hanno portato a quello che è stato in qualche modo lo scoppio di questa crisi, che proprio in questi giorni, proprio nell'ultimo periodo, sta facendo vedere tutta possiamo definire la sua brutalità, ma soprattutto numerosi economisti pensano che questo, diciamo, il peggio in qualche modo debba ancora arrivare, e non si riesce bene a definire quale potrebbe essere la reale portata di una crisi di questo genere. Eppure a quel gran fenicottero di Dietmar Mogheburg. L'unico folgurista giustificato è il compagno Javier Sotomayor. Senza scendere diciamo, nel lato prettamente economico, che in qualche modo non interessa durante diciamo così, questo piccolo spazio che dedichiamo a questa tipologia di prestito, ma soprattutto diciamo, non si hanno le capacità per specificare prettamente qual è il lato economico di questo di questa tipologia di prestito, è importante però diciamo, fare chiarezza su quello che si cela dietro questo appunto questo nome. Con subprime infatti normalmente si individuano quei prestiti che vengono concessi ad un soggetto, a più soggetti, o anche ad un'azienda che non può normalmente accedere ai tassi di interesse di mercato, nel senso che per problemi di insolvibilità, per fallimenti o per una, diciamo così, liquidità non molto cospicua, non possono accedere al normale mercato dei prestiti, quindi per fare il caso appunto qui del nostro paese, ai mutui gestiti dallo Stato o altre tipologie di prestito più a breve termine. Questa tipologia di prestito sono molto rischiosi sia per i debitori, quindi per il cliente che va ad istituire un prestito del genere, ma soprattutto per i creditori. Rischio che ovviamente i creditori fanno in qualche modo pagare molto cospicuamente alle persone che si rivolgono a loro. Appunto, questi rischi vengono diciamo così coperti da un tasso di interesse molto superiore a quello che è quello diciamo così di mercato, e a parcelle e premi in qualche modo celati all'interno del contratto molto più elevati rispetto a quelli correnti nelle normali tipologie di prestito. Con subprime, ovviamente, una cosa che diciamo normalmente non si è sentita molto qui da noi, si intendono non solamente appunto i prestiti, ma anche le carte di credito. Carte di credito appunto definite subprime e che funzionano in buona maniera similmente ai prestiti, e ovviamente anch'essi ad interessi molto superiori a quelli di mercato. Ma veniamo appunto ai giorni diciamo nostri, tra virgolette. Appunto, l'anno scorso quando diciamo in qualche modo venne alla luce la crisi, la portata che questa crisi stava avendo nell'economia americana, qualcosa come 2 dozzine di agenzie di credito diciamo fallirono nel brevissimo periodo di tempo che nel quale si sviluppò questa crisi. Il fallimento di queste compagnie portò ovviamente quel crollo dell'economia, del mercato azionario, che ancora oggi vediamo nelle borse internazionali e soprattutto nelle due degli Stati Uniti d'America. Molte critiche sono andate verso queste società, queste agenzie di credito, proprio per il fatto di aver accettato persone che sapevano già non avrebbero avuto in qualche modo la liquidità per estinguere il debito, o comunque per in qualche modo coprire il debito che le agenzie di credito andavano ad avere nei confronti di queste persone. E critiche sono in qualche modo state fatte anche nei confronti dello Stato stesso, dei governi, in particolare dei governi dei singoli stati. Effettivamente questa tipologia di prestiti non era minimamente regolamentata per quanto riguarda la legislazione americana, e un po' diciamo così era il nuovo far west per quanto riguarda appunto le banche, che potevano applicare i tassi che più piacevano, ma soprattutto con diciamo una contestazione di questi tassi molto stramba e diciamo così anche a livello antieconomico, come si legge in parecchi dossier. Ad esempio quello diciamo il meccanismo che portava un po' a diciamo così celare la reale portata economica di questi prestiti era quello di proporre un prestito con ad esempio un tasso iniziale solamente del 2%, quindi diciamo il debitore, la persona che si riferiva a queste agenzie, vedeva un interesse tra diciamo in parte ragguardevole, ma negli anni successivi questo interesse poteva essere ricontrattato unilateralmente dall'agenzia di credito, raddoppiando anno per anno e diventando quindi una vera e propria mutuo da pagare sopra al prestito che si era già istituito. Fingo di andarmene e mi rimetto al buio. Guardo nel cortile, di sotto di un riflettore la riconosco, tutta brillante nel suo grigiore metallizzato, molto bagnato. Salto un cancello mentre i poliziotti continuano la loro briscola. Tolgo la multa e dentro la mia auto tedesca, che ha solo 4 marce, smette di piovere. Torna all'hangar, l'uscita è aperta. la notte davanti ai poliziotti. Non mi vedono. È interessante capire i motivi per cui si è creato, diciamo, una crisi di questa portata solamente diciamo, da un valore molto, tra virgolette, fittizio come questo appunto dei prestiti. Effettivamente questa crisi, rilevante appunto solamente le agenzie di credito, si è allacciata a un altro meccanismo che negli ultimi anni interessava particolarmente il mercato americano. E appunto è quello stato un po' di quella che viene definita la bolla edilizia. Effettivamente nell'ultimo decennio c'è stato un notevole incremento del valore degli immobili in America, questo diciamo dovuto a varie motivazioni, ma soprattutto ad una volontà in qualche modo di fare affari d'oro per i costruttori, appunto facendo abitazioni o acquistandone lotti per poi rivenderle a un valore che si è calcolato in 4-5 anni addirittura arrivava a raddoppiare. È anche diciamo, importante notare come negli ultimi anni il 50% del PIL americano era proprio derivato dal settore edilizio, e quindi si capisce l'importanza che aveva per tutta l'economia americana questo settore. Appunto, il calo che in particolare agosto dello scorso anno è causato appunto da questa crisi finanziaria che vi abbiamo in qualche modo, in poche parole, cercato di spiegare, ha portato un po' tutte le agenzie di borsa a livello mondiale, soprattutto quelle europee, asiatiche, oltre a quelle americane, a introdurre tramite le banche centrali liquidità per appunto sostenere in qualche modo le borse e soprattutto i corsi azionari. Questo meccanismo ha portato ovviamente a diciamo una inflazione dovuta al maggior quantità di denaro che circolava, ma soprattutto ha portato a un calo dei prezzi considerevole degli immobili, soprattutto nel suolo degli Stati Uniti d'America, a valori precedenti la bolla speculativa. Questo ridimensionamento ha portato si è calcolato all'incirca a portare il prezzo appunto degli immobili a circa un terzo di quello che era solamente attuale, diciamo, 2 mesi precedenti. Questo meccanismo ha portato proprio il fatto che appunto le singole persone, i debitori nei confronti delle agenzie di credito avevano come unica possibilità, se non la liquidità, appunto l'immobile che avevano nella quasi totalità dei casi acquistato con questo prestito richiesto all'agenzia di credito. E appunto le società stesse, nel momento in cui hanno in qualche modo pignorato queste case e sono andate nel mercato per cercare di reimmettere liquidità nelle proprie casse, effettivamente hanno visto che quella abitazione valeva praticamente neanche la metà del debito che avevano, e questo appunto ha causato il fallimento di numerose agenzie, ma soprattutto ha causato quella crisi che ancora oggi diciamo getta un velo oscuro sopra quella che potrebbe essere in qualche modo il futuro per il mercato americano. Con le sue cause e a volte dettati dalla follia piuttosto che da un qualche credo. Numerose numerose critiche sono andate nei confronti sia delle agenzie di credito, del mercato americano, ma soprattutto per quanto riguarda appunto i governi e anche il governo federale. Effettivamente è stato criticato il fatto che questa bolla edilizia non aveva basi tangibili, ma era appunto esclusivamente un diciamo valore di mercato che poi non ritrovava un riscontro effettivo diciamo sulla praticità, sulla singola abitazione. Altre diciamo così critiche sono state volte nei confronti sempre delle agenzie di credito, che in qualche modo avevano dato prestiti a persone che già sapevano che non potevano in qualche modo ricoprire con la propria liquidità, se non con appunto l'abitazione, che forse era il reale interesse di queste agenzie di credito. Successivamente allo scoppio diciamo della crisi, in qualche modo all'interno del governo federale si è cercato di interessarsi a questo diciamo a questa piaga sociale che è nata appunto negli Stati Uniti d'America. Appunto alcuni senatori democratici hanno proposto che il governo fornisca fondi per aiutare appunto i debitori subprime, debitori che da un calcolo molto approssimativo ad oggi sembrerebbero raggiungere la quantità di 2 milioni di famiglie. Quindi da un rapido calcolo che fanno all'interno di questo dossier si parla di qualcosa come 5 milioni di persone. Fra le soluzioni appunto per questa emergenza ci sarebbe appunto l'avvio di un programma di edilizia popolare, cosa totalmente sconosciuta negli Stati Uniti d'America, che hanno sempre lasciato appunto l'edilizia in mano al mercato e un po' ai diciamo agli imprenditori che hanno fatto i soldi con il costruire case a rivendere a prezzi stratosferici, o a una riforma della legge sui pignoramenti che effettivamente diciamo la sua in qualche modo non adeguatezza ha portato a sviluppare tutto questo sistema. Per quanto riguarda il nostro stato, appunto la nostra realtà italiana, il problema subprime non dovrebbe interessarci, almeno direttamente. Ovviamente alcune diciamo così ritorsioni tra virgolette economiche ci sono per diciamo il legame dell'azionario che c'è con gli Stati Uniti d'America, ma effettivamente il problema subprime quando riguarda solamente le abitazioni non dovrebbe esserci, in quanto questa tipologia di prestito nel nostro paese è praticamente quasi inesistente. Ma in Italia appunto ci sono numerosi altri problemi per quanto riguarda le abitazioni, e è proprio quello che andremo a cercare di indagare proprio adesso. Tizio schivo quanto basta, farfuglia cosette al microfono. Lo ascolto con attenzione, ma non mi dice niente. Mentre il fonico affamato giura che farà una grande carriera. Sarà, ma il pubblico sparuto del giovedì sera non pare garantirgli un promettente futuro. Anche il fonico sta lavorando a un disco improprio, eppure del suo ne dicono un gran bene. Mi sembrano tutti fuori di testa. Ma dove pensate di andare? Torno in cucina a fare panini per due sedicenti futuri eroi della canzone italiana, ridacchiando le loro spalle di quelle speranze un po' ridicole nel loro grossolano errore di prospettiva. Ripensando al circoletto, allo sfigato sul palco e al mangiapane a tradimento che stava al mixer, credo che in quel giovedì sera sia andata poi di lusso quasi a tutti. Chiuse assieme alla sezione per far posto una pizzeria dal nome insolito. Andò che l'Arci Spettacoli organizza spettacoli sempre più grandi. E il cantautore ha fatto davvero la sua luminosa carriera. Mentre il fonico si gioca da anni con un modenese, il primo posto nell'immaginario collettivo. E senza andare troppo lontano e ad analizzare così come è stato fatto in questi, diciamo, minuti della situazione, della complessa situazione americana e della crisi finanziaria che si è verificata appunto nel caso della rendita immobiliare in questi ultimi anni, vogliamo fare un esempio che in realtà è molto vicino a noi, così appunto nel tempo e nello spazio, un esempio che si è verificato proprio qualche una decina di giorni fa, in realtà il 7 aprile, e che in qualche modo è un po' emblematico di tutta quella situazione riguardo appunto agli affitti, alle rendite immobiliari e ai conseguenti procedure di sfratto che vengono fatte nei confronti di famiglie che abusivamente occupano delle case che non sono di loro proprietà, che si è appunto verificato a Roma appunto come dicevo il 7 aprile scorso, quindi una decina di giorni fa circa, un episodio che tra l'altro, se non vi ricordate male, è stato appunto è successo appunto in questa lunga e lunghissima campagna elettorale che ci siamo appena lasciati alle spalle. Senza passare dal via. Quel gruppo era la prova, solo allora vivente, che quelle leggere non sempre hanno la colpa di tutto. Era un quartiere caratterizzato da una solidarietà sempre meno intensa, anno dopo anno, e i cambiamenti della popolazione furono rapidi. Ma il nostro campetto era sempre lo stesso. Domenica 7 aprile, infatti, circa 500 persone tra famiglie di italiani, migranti, giovani coppie e altro hanno varcato i cancelli di un complesso residenziale di un noto costruttore romano, delle case che si trovano in una periferia, la Bufalotta, periferia che appunto si trova a nord-est della capitale. Queste persone appunto, per far fronte alla loro esigenza, alla loro emergenza così forte, in quanto appunto sono centinaia di famiglie senza casa che appunto per far fronte a questa protesta hanno portato all'occupazione di questo grande complesso residenziale che si trova nella capitale. In realtà non si trattava di una vera e propria occupazione, era stata una vera e propria protesta che non è sfociata in un presidio un po' così, diciamo, sui generis e particolare, perché si è trasformato in una vera e propria tendopoli nel centro della città. Queste persone infatti si sono recate proprio in questo domenica nei pressi di piazza San Marco, una piazzetta che si trova all'angolo di piazza Venezia, proprio di fronte al Campidoglio, appunto la sede comunale. E non hanno fatto altro che armarsi di tende e piantarle proprio in questa piazzetta. E quindi si è verificato un episodio abbastanza particolare e così divertente, se non fosse per la problematica così seria che appunto il discorso dell'emergenza della capitale delle case nella capitale, appunto questa vera e propria città della dignità, così è stata chiamata dalle persone che si sono accampate in questa piazzetta, alla quale però lo stesso comune poco dopo ne ha subito chiesto lo sgombero. Nera come il suo trucco esagerato e i suoi pori dilatati, al mio timido saluto si illuminò e disse: dammi qualcosa da mangiare. Parco alla soglia di casa mia circospetta, ma quando le presentai del pane e un pezzo di cioccolata ci si avventò grata e felice. Uno sgombero che in realtà si è verificato anche subito e improvvisamente, in quanto è arrivato la mattina stessa dell'8 aprile. Quindi questa della città della dignità è un'esperienza che è durata pochissime ore. In realtà il prefetto, per far fronte a questo problema di questa tendopoli costituitasi così alle soglie del Campidoglio, aveva garantito un incontro ai numerosi attivisti che insieme appunto alle centinaia di senza casa si erano uniti per far fronte alla protesta, e il prefetto aveva appunto garantito un vero tavolo trattativa per far fronte a questa emergenza. Alle 6:30 invece dell'8 aprile decine di agenti del reparto mobile hanno sgomberato con forza le 55 tende piantate appunto nella aiuola di piazza San Marco, e diverse decine di persone sono state strattonate e anche picchiate, arrivando addirittura all'arresto di 9 persone. Diversi attivisti, diversi anche consiglieri regionali della stessa regione Lazio e appunto coordinamenti che fanno fronte al problema dell'emergenza casa, come ad esempio il coordinamento lotta per la casa, si sono da subito mossi per costituire un po' un tavolo, quello che in realtà non si è verificato con gli occupanti di piazza San Marco, per portare alla luce proprio appunto il problema dell'emergenza casa a Roma. Nel primo pomeriggio infatti di quello stesso 8 aprile si è questo presidio, questa occupazione che appunto ormai era stata sgomberata, si era installata una vera e propria assemblea pubblica, dove hanno partecipato appunto decine di persone alle quali ognuno appunto il messaggio principale che ne è venuto fuori è stato quello di costruire una risposta politica all'emergenza abitativa. Quella sorpresa di una scoperta così mistica e quel campetto che poi vide morire un'intera generazione di oppiacei e malattie conseguenti mi regalarono un momento che per tutti gli anni a venire, se così si può dire, accese le mie fantasie. L'idea è appunto quella di tenere alta l'attenzione su un problema sociale esplosivo. Se facciamo riferimento a da alcuni dati che sono emersi proprio questo mese su riguardo al numero degli sfratti del 2007, stiamo parlando infatti di una vera e propria emergenza. Sono oltre 20.000 appunto gli sfratti che si sono verificati nella sola capitale. Restano sempre appunto alte in Italia, un'emergenza appunto alta in Italia, ma in particolar modo nella città di Roma. Secondo i dati infatti del Viminale che sono appunto usciti proprio in questi giorni, quelli eseguiti con la forza pubblica e l'ufficiale giudiziario sono stati oltre 20.000 casi in Italia, di cui soltanto 1.700 nella sola capitale. Si parla non soltanto appunto di questi numeri, che sono ugualmente drammatici, ma nella sola capitale appunto 50.000 famiglie sono in quella che si considera emergenza abitativa. Il 70% degli sfratti è fatto per morosità e quasi 1.000 euro la media del costo degli affitti. In questo scenario l'edilizia residenziale pubblica copre appena il 4% degli aventi diritto. Non sono solo questi gli episodi che si sono verificati in questo periodo. In realtà, appunto, facendo un breve giro così su internet si scopre un mondo che gira attorno al discorso dell'emergenza casa. È un episodio che si è verificato il primo marzo, che è passato un po' così in sordina. Proprio in quei giorni infatti il Parlamento aveva approvato l'emendamento che rinviava al 15 ottobre di quest'anno gli sfratti riguardanti le cosiddette categorie protette, che ovvero si sta parlando di ultra 65 anni, di portatori di handicap o comunque con famiglie con figli a carico. E proprio quella mattina, sempre nella stessa Roma, in un quartiere del Tuscolano, è stata concessa la forza pubblica per eseguire lo sfratto nei confronti di un signore, di un uomo, un pensionato cardiopatico di 86 anni, che in realtà resideva in quell'appartamento da oltre 40 anni. L'idea che è venuta fuori, la notizia che in realtà è venuta fuori, oltre al fatto diciamo dello sfratto di questo uomo, appunto, è stato quello di non avere riguardi per questo anziano cardiopatico che, nonostante appunto occupasse quell'appartamento da ben 40 anni, ma appunto soltanto perché la casa in qualche modo non era la sua, e nonostante appunto la sua età, è stato così cacciato con forza. Conosciuto è quello specchio gelido e inospitale. Scoperto durante il secolo scorso, il chirocefalo è da allora oggetto di attenta sorveglianza, a garanzia non sempre disinteressata della sua sopravvivenza a rischio di estinzione. Come però abbiamo sentito all'inizio appunto di questa puntata, un po' la politica, se così vogliamo chiamarla, americana è quella così di fare un passo indietro e conquistare quel diritto della casa appunto come diritto sociale, che proprio negli Stati Uniti in qualche modo questa idea, proprio perché per esigenze così di mercato, non si era mai verificata. Quello che in realtà invece si sta verificando nel nostro paese, e tutti questi episodi di sfratto, queste problematiche così vengono fuori e, ed emergono così anche drammaticamente, come appunto abbiamo cercato di accennare, è quello che queste politiche pubbliche che appunto portano al diritto della casa appunto come diritto sociale sono state via via smantellate. Proprio nel nostro paese negli anni 60 e 70 in realtà c'erano state così delle politiche in qualche modo decisive per affrontare alle radici la questione abitativa. Ad esempio nel 1962 proprio per ridurre pesantemente l'incidenza della rendita sul prezzo finale della casa ci si inventò e poi appunto si applicò lo strumento del piano per l'edilizia economica e popolare, in qualche modo prevedendo l'esproprio di alcune aree che poi appunto furono destinate all'edilizia sociale. Qualche anno più tardi, esattamente nel 1978, per fissare un tetto alla rendita edilizia, anche in questo caso ci si inventò lo strumento dell'equo canone, e cioè di un sistema di definizione amministrativa dei canoni di locazione che teneva conto del profitto dell'impresa edilizia, ma solo limitatamente alla rendita immobiliare. Quello che invece si sta verificando, appunto, come dicevo prima, nel nostro paese, è il fatto che queste così politiche di sostegno nei confronti di coloro i quali non si possono appunto permettere l'acquisto di una casa di proprietà sta via via sparendo, anzi, se si può dire, in qualche modo è già scomparto. Si assume in questa prospettiva come unico riferimento e interlocutore economico il mercato, e in qualche modo tutte le soluzioni che si sono finite per adottare invece aiutare così le famiglie, coloro che appunto hanno bisogno, invece finiscono per premiare ulteriormente la rendita immobiliare, provocando così un ulteriore aumento dei prezzi. riallacciandomi appunto al discorso appena fatto sul problema abitativo principalmente nella capitale, effettivamente diciamo a livello istituzionale non si fa molto per risolvere questo problema. Proprio degli ultimi giorni è la notizia che la Regione Lazio ha stanziato una quantità, diciamo così, esigua di denaro per in qualche modo arginare il problema. Effettivamente c'era già stato a livello istituzionale un forte interessamento riguardo al problema abitativo, in particolare nel municipio decimo, quello che interessa un po' la zona di Cinecittà e che diciamo ha al suo diciamo così nel suo diciamo soglio, nel suo aggregato all'interno di esso, una persona come Sandro Medici, che è sempre stato attivo molto positivamente per quanto riguarda l'abitazione. Vi ricorderete sicuramente, e comunque potete ricercarlo se andate anche nel nostro blog, la notizia che appunto un anno fa aveva dettato un po' scalpore proprio riguardo a Sandro Medici. Effettivamente diciamo la maggioranza del municipio 10 ha fatto appunto una sorta di regolamento per a scopo abitativo, nel quale appunto si in qualche modo bloccavano tutti gli sfratti per arginare appunto un problema che proprio a Cinecittà, che è una fra i municipi più popolosi della capitale, andava in qualche modo ad avere delle proporzioni veramente diciamo così preoccupanti. Effettivamente, come è facile capire, tutto il diciamo così l'ambito politico da destra a sinistra si è schierato contro questo regolamento che poi successivamente è venuto anche, diciamo così, per via legale in qualche modo inabilitato. Ma importante è stato, diciamo così, il gesto simbolico, se così si può definire, fatto appunto da Sandro Medici stesso, un gesto che non è stato dovuto appunto a ideologie politiche o altro diciamo così con secondi fini, ma esclusivamente da venire diciamo così individuato come un'attività necessaria per la dignità delle persone che non potendo riferirsi al mercato per acquistare una casa, molto spesso si trovano a in qualche modo dover passare le proprie giornate in situazioni veramente degradanti. Ma purtroppo appunto questo del municipio 10 è stato un po' un caso molto isolato. Effettivamente anche nella appena conclusa campagna elettorale a livello nazionale si è sentito parlare ben poco di una nuova politica sociale per quanto riguarda le abitazioni, per quanto riguarda le case popolari, come d'altra parte si è sentito parlare ben poco alla lotta per la precarietà, che effettivamente è in qualche modo molto sinergica con quanto riguarda il problema della casa. Effettivamente la difficoltà delle persone, soprattutto delle coppie giovani, di acquistare una abitazione è dovuta proprio alla forte precarietà che si sta sviluppando nel nostro paese. Effettivamente il mercato dei mutui non prende in considerazione quelle persone che non hanno definiamolo così, uno stipendio fisso, comunque un'entrata fissa che garantisca in qualche modo quella che è appunto la realtà di un prestito a lungo termine come quello per l'acquisto di un'abitazione. E quindi effettivamente la lotta per la casa non si può scindere appunto da quella contro la precarietà, che vanno di pari passo avanti, infischiandone un po' diciamo così, infischiandone appunto su quelle che sono i diritti essenziali di una persona, come appunto quello di avere una casa dove costruire una famiglia o comunque dove poter vivere. Ma effettivamente perché allora molto più spesso si sente parlare di occupazioni, non solo in una realtà che ha, diciamo così, una cultura, che ha un'esperienza del genere come appunto la capitale, ma molto più spesso anche in realtà di provincia, in piccole città, che effettivamente non hanno mai avuto culture o esperienze di questo genere in passato. Il letto di mio padre morente. Da allora quell'uomo ha deciso che io sono mio padre. Ogni anno la vigilia di Natale chiama. Parla con me 20 minuti di cose che non so e di un periodo in cui non ero ancora nato. Ha il tono cameratesco che usava con lui e si sbaglia perfino a chiamarmi per nome. Mi dice: ti ricordi quello lì? Quella là? Effettivamente, se si vedono alcune situazioni, ad esempio nella capitale, si capisce come molto più spesso famiglie anche italiane, non solamente diciamo così di migranti, ma soprattutto anche famiglie italiane, famiglie che lavorano ma purtroppo non hanno la possibilità di accedere ad un prestito per acquistare una casa, facciano parte appunto dei vari comitati, coordinamenti che molto più spesso si devono in qualche modo muovere, si devono far sentire occupando degli stabili per far capire che il problema casa deve essere tra i primissimi in una ipotetica scaletta di interessi nei confronti dei cittadini. E effettivamente questo concetto in una città come la capitale ha un valore anche maggiore. Effettivamente con la cartolarizzazione molti edifici che erano a carattere pubblico sono in qualche modo andati a finire negli interessi dei soliti potentati, acquistandoli appunto senza un grande esborso e quindi un rientro economico da parte dello Stato. Questi edifici appunto che vengono lasciati inabitati solamente aspettando che il loro valore cresca e in quel momento per poterli rivendere a prezzi esorbitanti proprio nel mercato. Questi edifici che proprio potrebbero essere utilizzati, basti pensare a ex scuole, a conventi, a strutture che in qualche modo lo Stato non utilizza più, potrebbero appunto essere utilizzati per dare un'abitazione a persone che proprio nel mercato non possono riferirsi per il loro diciamo così basso stipendio. Ma purtroppo, come si vede proprio ad esempio nella capitale, questa non è la strada che in qualche modo si sta cercando di intraprendere. Effettivamente sono molto diciamo così molto perplesse svariate persone che si interessano di questo problema, non solo diciamo nella capitale ma un po' in tutta Italia. Se ad esempio cliccate sul sito www.ediburg.it, ci sono appunto proprio un insieme di architetti, ingegneri che in qualche modo criticano l'attuale linea che un po' a livello nazionale si è trapresa per quanto riguarda i regolamenti, appunto i piani regolatori che riguardano le singole città. E proprio la capitale è uno dei casi emblematici dove il verde viene sempre più in qualche modo eliminato per dare spazio a metri quadri di carattere residenziale che comunque non vanno a eliminare diciamo il problema abitativo. Effettivamente tutte queste zone date ai soliti noti per quanto riguarda gli imprenditori romani non fanno altro che creare quelle sorte di quartieri molto chiusi, quei quartieri di elite che purtroppo non fanno altro che essere secondo o terze case per chi diciamo ha la possibilità di acquistare una casa all'interno del mercato e come in questo caso più di una. Effettivamente nuovi piani regolatori, come si legge appunto nel sito, non darebbero diciamo spazio a quella che sia una zona sociale, una socialità per quanto riguarda appunto il discorso delle abitazioni, ma solo esclusivamente sembrerebbero interessati a far aumentare la rendita appunto delle abitazioni per far fare notevoli lucri ai soliti nomi dell'imprenditoria edile nella capitale e che purtroppo appunto vanno sempre di più a ledere quelli che sarebbero gli interessi inaneliabili dei singoli cittadini che vorrebbero avere solamente una casa. anche per oggi il tempo a nostra disposizione è finito qui. Vi ricordo soltanto l'appuntamento per sabato prossimo dalle 14 alle 15, sempre dalle frequenze di MEP Radio Organizzazione. E prima di salutarvi vi ricordo l'indirizzo email verbavolant@mepradio.it e il nostro blog www.radio.noblogs.org. Alla prossima!